posso cercare di fare un bilancio di questa giornata da quando noi siamo arrivati qui, cioè all'una di oggi. E alla fine la rete antirazzista siciliana, per fortuna, è rappresentata da 15 persone, che rispetto all'ultima volta è un gran numero, ma abbiamo potuto fare abbastanza poco. E quello che abbiamo fatto inizialmente è stato, una volta che abbiamo visto i migranti che cominciavano a uscire fuori dal cancello, abbiamo cominciato tramite uno di noi che parla arabo a urlare a queste persone che loro potevano chiedere asilo politico e che loro sarebbero state rimandate in Libia. E perché dentro il centro di permanenza temporanea c'è un cartello in cui si legge che le persone verranno trasferite in un altro centro d'Italia per spiegare il motivo del loro viaggio. Quindi loro non sanno dove andranno quando vengono caricati. Questa volta non hanno usato le manette, hanno preferito farli uscire fuori a gruppi di uno, di due, con tantissima scorta della polizia, per evitare forse l'impatto mediatico delle manette dell'ultima volta, ma il concetto è assolutamente lo stesso. Si tratta lo stesso di deportazioni di persone non identificate verso un paese dove molti di loro vanno a morire, e lo sappiamo oramai. A seguito del fatto che abbiamo detto alle persone che stavano andando in Libia e che avevano dei diritti, i migranti hanno cominciato ad agitarsi, a quanto pare, sia dentro il campo, dove sono arrivati però delle macchine della polizia e hanno messo a tacere quello che stava succedendo, ma noi eravamo fuori, quindi non posso sapere esattamente cosa, sia sopra l'aereo. Dall'aereo, una volta che erano state caricate alcune persone sopra, sono riusciti a scendere, c'era veramente molta confusione, da 5 a 10 i migranti sono riusciti a scendere giù, hanno cominciato a scappare da tutte le parti della pista. Sono stati momenti veramente terrificanti, ovviamente noi speravamo che ce la facessero, ma era impossibile, sono stati ripresi a manganellate, rimessi con la forza sopra, dopodiché l'aereo sembrava che stesse partendo, ma a quanto pare possibilmente un manganello è stato un po' più forte degli altri, perché hanno dovuto fermare i motori e riaprire la porta e fare scendere un ragazzo trascinato dalle braccia e dalle gambe da 3 persone, perché forse, non lo so, il capitano si sarà rifiutato di partire con una persona in questo stato a bordo. Fatto sta che lui ce l'ha fatta, però non è stato nemmeno messo su un'ambulanza, ma dentro una camionetta della polizia, e se n'è andato. L'impressione è che non siano riusciti a riempirlo questo aereo. L'impressione da qui è che non siano state 90 le persone, ma di meno. Ma quindi, quindi erano previsti 2 voli, giusto, quest'oggi, da Lampedusa verso la Libia? Però... l'aereo quando siamo atterrati era uno ed è rimasto uno, le persone sembrano meno di 90. Quindi potevano essere... l'aereo non si è visto. Potevano essere 180, in teoria in realtà sono partite molte meno. Molte meno, sì. Sembra di sì. Ancora, ora sta a vedere, noi siamo qui, ora torniamo in aeroporto, ci siamo allontanati un momento e vedremo se è arrivato un altro aereo, se continueranno stasera. Ma quindi c'è la possibilità che parta al limite un altro aereo in serata o in nottata? Noi non l'abbiamo visto, le notizie fuggite erano che dovessero partire 2 aerei con 90 persone a bordo oggi, così non è stato finora. Finora ne è partito uno e sembra con meno di 90, e sembra che il fatto che i migranti si siano totalmente rifiutati di tornare in un posto che purtroppo conoscono perché ci sono passati e che, ricordo, non è il loro paese, dove hanno già subito violazioni e sevizie di ogni tipo, hanno già affrontato il deserto, loro hanno capito che li stavano riportando lì e ovviamente si sono rifiutati e hanno cercato di opporsi con tutte le loro forze a questa cosa. Chiaramente. E sembra che abbia avuto un effetto. Certo, ma il dato magari che sarebbe da sottolineare è il fatto che quando appunto è stato fatto presente ai migranti che non sarebbero stati portati verso un altro centro di permanenza, bensì in Libia, loro abbiano fatto richiesta di asilo politico, insomma. Cioè, hanno fatto presente che loro... Noi questo non lo possiamo sapere, noi eravamo a distanza, quello che potevamo vedere è che loro ci sentivano, si giravano, ascoltavano le parole in arabo, mentre gli dicevamo: state andando in Libia, potete chiedere asilo politico. Però loro non avrebbero comunque gli strumenti per poterla fare una richiesta di asilo politico lì dentro. Finché non arriva qui un politico che possa portare dentro un avvocato, dentro quel campo, come dentro tutti i centri di permanenza temporanea, può succedere qualunque cosa. loro non sono informati dei loro diritti, ma per esperienza personale, anche qualora lo fossero, fare delle richieste d'asilo lì dentro è veramente difficile. La cosa che sicuramente li ha fatti agitare di più è stato capire che stavano andando in Libia, al di là del fatto che saranno estenuati, perché ricordo che c'è gente che sta lì da martedì dentro quel posto, creato per 190 persone, che già è un lager per 190 persone, ce n'erano più di 600 oggi, quindi ce ne sono ancora tantissime lì dentro. Tra l'altro vorrei anche sapere se qualcuno ha mai convalidato la detenzione di queste persone per tutti questi giorni. Ma il numero di violazioni del diritto in questa storia è così alto oramai. Oggi quello che urlavo lì dentro all'aeroporto è che la legge sta tutta dalla nostra parte. Cercavo di urlare anche alla gente in divisa lì dentro che stavano commettendo un crimine, che noi eravamo lì paradossalmente a cercare di difendere leggi che non ci piacciono, ma che non vengono rispettate. La Bossi-Fini è una legge orrenda, è profondamente razzista, ma nemmeno questa in questo momento viene rispettata.